Grazie. Ma credo che Marco sia malato, eh? Non so se è in sala, ma ieri aveva la febbre alta. Luca si è dimenticato di dire una roba, che la sua azienda ha iniziato la conversione al biologico, quindi insomma un passo credo molto importante. Mi sono venute in mente talmente tante cose stasera sentendo i miei colleghi e gli interventi che adesso non so più bene di cosa parlare, sostanzialmente un po' in confusione. Direi di focalizzare la roba su questo, cioè nel 2012 sono 32 anni che con Renata faccio l'agricoltore e ho passato già da subito sia io che lei ci siamo un po' impegnati nel nostro settore, no? A titolo diverso, quindi non a fare solo gli agricoltori ma anche a intervenire nel nostro mondo a vario titolo. E i primi, diciamo, 27 anni di questa attività extra aziendale sono stati fondamentalmente impegnati a parlare all'interno del nostro mondo. Cioè ero dentro l'associazione allevatori, dove si parlava di genetica, di assistenza tecnica, poi ero nell'associazione produttori latte, si è parlato per 10-15 anni di quote latte, no? come uscire da questo problema delle quote latte, tutto dentro di noi, no? Poi anche dentro l'associazione sindacale, il problema del reddito, cioè tutto dentro il nostro mondo. Negli ultimi 5 anni invece è successa una cosa abbastanza strana, che improvvisamente il mondo esterno, cioè il mondo dei consumatori, non solo dei consumatori di cibo, ma dei fruitori dell'ambiente, della campagna, di queste cose qua, si sono precipitati, sono arrivati, no, a porre questioni. E i referenti, quindi, del mio personale impegno, è diventato improvvisamente tutto il mondo, cioè la realtà che ci circonda nelle sue varie tantissime articolazioni, no? Da quelli che avevano bisogno di un cibo diverso, di un cibo buono, da quelli che avevano bisogno di far relazionare la propria mensa col territorio, da quelli che stanno aprendo un negozio a Milano e vogliono usare i prodotti del territorio, a quelli che vogliono la pista ciclabile, a quelli che vogliono valorizzare un'area perché contiene delle particolarità naturalistiche di pregio, per cui ha possibilità di un turismo responsabile. Ecco, improvvisamente questa cosa qua, che sta diventando un impegno addirittura enorme, perché la richiesta che vedo dal mondo esterno nei confronti degli agricoltori si sta facendo veramente pressante, forse addirittura esagerata, nel senso che si sta chiedendo al mondo agricolo la soluzione di un sacco di problemi, caricandoli di un'eccessiva responsabilità, secondo me, no? Anche perché gli agricoltori hanno già abbastanza da fare a coltivare la terra e a cercare di tirarne fuori un reddito che non sempre è facile, però nello stesso tempo, anche se il tempo è poco, ma questo aspetto ha contribuito a ridarmi delle motivazioni profonde, cioè mi ha rimesso in pista dopo 30 anni di lavoro a ritrovare una forza, un'energia che si stava un po' disperdendo a fare sempre le stesse cose, per cui in primavera aravo e seminavo, in autunno raccoglievo, e questo era più o meno sempre lo stesso schema. Questa nuova relazione con questa ampia varietà di mondo sicuramente mi ha rimotivato, ma per darvi solo una dimensione, cioè nell'ultima settimana abbiamo fatto una riunione con i 15 comuni di Agenda 21 dell'Est Ticino per un progetto TASS, si chiamano, progetto Territorio, Ambiente e Società Sostenibile, progetto che prevede proprio il fatto di mettere in relazione la gente che vive in questi 15 comuni con la produzione e le articolazioni del mondo agricolo in questa roba qua. Ieri sera a Milano un intero mercato comunale è stato messo a un bando privato, con la prerogativa che chi avesse vinto questo bando doveva per forza gestirlo avendo in tutto questo mercato, il mercato del QT8, i prodotti dell'area milanese. E ieri sera c'è la riunione con questa signora che ha vinto il bando e che dice io voglio i prodotti locali, voglio andarli a cercare dove sono, quant'altro. Lunedì pomeriggio ero a Cesano Boscone con un altro progetto di Fondazione Cariplo con l'associazione commercianti Cesano Boscone che vuole comprare i prodotti del territorio. Domani mattina c'è una riunione in cui parleremo, ci sono parecchi che sono qua in questa sala, della possibilità di fare un distretto agricolo, cioè solo per dirvi l'ultima settimana, no? Che cos'è, cioè, quindi una quantità di relazioni impressionanti. Ecco, finisco pensando che finalmente probabilmente la connessione tra la società e l'agricoltura, che è sempre stata per millenni una connessione naturale, cioè non c'era cesura, non c'era frattura, no? Tra l'essere e il vivere in una comunità e il produrre in quella stessa comunità. A un certo punto invece queste due cose si sono assolutamente separate, no? Sono andate ognuna per i fatti propri. Vedo, lo tocco proprio, si sente anche qua stasera, che probabilmente la tendenza alla frattura si è esaurita ed è ricominciato un processo di ricomposizione di queste cose qua. È un processo di ricomposizione sicuramente non facile che probabilmente avrà alcune accelerazioni nel momento in cui certi processi magari politici tipo l'elezione di Domenico a sindaco di Abbiategrasso potranno favorire un processo che sicuramente avrà delle fasi alterne, dei salti e probabilmente anche delle marce indietro, ma che credo che sia comunque sostanzialmente irreversibile se si vuole far sì che l'armonia complessiva della società abbia un futuro positivo. Grazie. Non so se c'è, allora abbiamo esaurito diciamo gli interventi degli agricoltori che erano in scaletta. Io non so, qualcuno mi sembra di averlo visto, se c'è qualche agricoltore che vuole dire qualcosa, siamo qua, o anche qualcuno non agricoltore, per l'amor del cielo.